Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, finalmente è arrivato il nostro momento, sono le 11.09, andiamo al nostro sommario con Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Equilibrio del corpo e della mente, scaldiamoci con lo shiatsu. Sani peccati di gola, lezione numero 3. Allora, la puntata di oggi ruoterà intorno ad una parola che usiamo spesso e di cui possiamo dare una lettura psicologica ed una fisiologica. L'equilibrio, un termine che indica un modo di essere, di comportarsi, ma anche un modo di stare, proprio di muoversi nello spazio. Quindi oggi parliamo di equilibrio del corpo e di equilibrio della mente, due facce della stessa medaglia che spesso, è il caso di dire, si interfacciano condizionandosi reciprocamente. Per questo in linea abbiamo due esperti, il professor Giorgio Guidetti, che è responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare all'azienda USL di Modena. Buongiorno professor Guidetti, bentornato. Buongiorno a tutti. E in linea con noi abbiamo il professor Luciano Casolari, che è professore di psicosomatica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Come va lì la neve? Scusi, a proposito. Qua c'è molto ghiaccio. Lì avete il ghiaccio, noi ancora. Abbiamo il ghiaccio, sì. Bene, attenzione, a proposito di ghiaccio, non scivolare perché l'equilibrio è facile perderlo, a proposito di equilibrio. Allora, professor Casolari, l'equilibrio è, possiamo dire, uno stato mentale, ma sappiamo proprio che basta poco, proprio come succede coi piatti di una bilancia, che da sempre dell'equilibrio è il simbolo, per perderlo e o alterarlo. E di questo tempo, affannati come siamo per i preparativi del Natale, molti di noi lamentano una grande confusione, sembra proprio che manchi la terra sotto i piedi, ci sentiamo, come si dice, un po' sballottati. Sì. Io per prima cosa vorrei puntualizzare una cosa, che l'equilibrio perfetto a mio avviso non esiste, ma è frutto di disequilibri continui. Sì. Cioè, facciamo un esempio per farci comprendere, l'equilibrista sulla fune non è una persona che è sempre continuamente in un equilibrio perfetto, ma è una persona che a volte è disequilibrato da una parte e a volte è disequilibrato dall'altra, corregge la sua situazione in vari momenti. Questo lo voglio dire perché io vedo molte persone che vengono a chiedere allo psicologo qual è l'equilibrio perfetto e bisogna che noi gli diciamo che non esiste l'equilibrio perfetto, ma esistono dei disequilibri che possono essere fra loro compensati e che alla fine creano quello che è l'equilibrio personale. Certo, e quindi bisogna sempre un po' cercare di stare in equilibrio, vuol dire in qualche modo continuare ad aggiustare dei piccoli cambiamenti e procedere. Esatto, sì, perché se io sono ad esempio geloso, è giusto che possa essere geloso, ma se la mia gelosia diventa una costante della vita e continuamente non riesco mai a fare il passo nella direzione opposta, cioè quello di essere liberale o aperto a nuove conoscenze per quanto riguarda il mio partner, ecco che questo essere costantemente in una posizione mi mette in una situazione di stress e di difficoltà continua. Perché quando noi parliamo di desiderio della persona di essere equilibrata a livello mentale, pensiamo subito agli eventi importanti della vita che possono determinare un cambiamento strutturale, cioè gli eventi traumatici che possono modificare in modo sostanziale la nostra vita. Mettiamo un bambino a cui muore un genitore, una persona che è innamorata a cui muore la persona amata e così, oppure una perdita finanziaria importante, la perdita del lavoro. Adesso è di stretta attualità purtroppo qua a Modena, dove abbiamo una crisi economica piuttosto importante, però spesso può essere, e quello che noi interessa, frutto anche di situazioni che si ripetono nel tempo e che sono molto continuative, in cui noi ci troviamo in una situazione di tensione continuativa. Mi viene in mente il caso che ho visto proprio nei giorni scorsi, di una signora che si trovava in un disequilibrio tra le varie componenti della sua vita emotiva, cioè sul ragionamento la vedeva in un modo, però a livello di sensazioni ed emozioni la sentiva tutt'altro. Ad esempio, questo caso lei è una persona che dirige un'azienda e però col nuovo direttore superiore a lei, lei capisce che, che lei deve continuare a vivere in quell'azienda perché ha avuto delle grandi soddisfazioni, un buon reddito, tutta una serie di cose, però non si trova emotivamente con questa persona e quindi il ragionamento va in una direzione, l'emozione va in un'altra. Bisogna trovare una via di equilibrio. Intanto chiediamo ai nostri ascoltatori di intervenire al nostro numero verde 824 0024 se vogliono affrontare questo aspetto insieme al professor Casolari, ma abbiamo detto che avremo declinato anche il termine equilibrio per come equilibrio del corpo. Sappiamo che è controllato da una rete nervosa che comprende vari organi e apparati, tra cui il cervelletto e l'organo dell'equilibrio, una centralina di cui abbiamo parlato spesso che si trova nell'orecchio interno. A volte va in tilt e provoca, lo sappiamo, una serie di disagi che vanno dalla sensazione di vertigine a quella altrettanto fastidiosa di instabilità, per dirla in modo semplice, quando ci sembra che ci manchi la terra sotto i piedi. Professor Guidetti, lei si occuperà di questa parte di equilibrio? Eh sì, la parte mia è quella di parlare dell'equilibrio fisico, diciamo, cioè della capacità di avere sempre una posizione del corpo nello spazio adatta a quello che vuoi fare. E quando salta puoi avere di tutti i colori, puoi vedere il mondo che comincia a girarti intorno, ti puoi sentire sprofondare, puoi sentirti volare via, o puoi sentirti anche semplicemente instabile o senza terra sotto i piedi. Queste sono un po' così le varie sensazioni che si possono provare, tutte figlie della malattia, di tipo diverso magari, ma della stessa struttura nervosa che appunto va a controllare, come diceva prima lei, l'equilibrio. Allora, di equilibrio in queste due eccezioni parleremo nel corso della trasmissione insieme ai nostri ospiti. Spesso, professor Guidetti, le persone che hanno provato una crisi vertiginosa o hanno soffrono di instabilità hanno delle paure anticipatorie perché temono di rivivere quella situazione. Poi non si sa più se è la mente a farci sentire in questa situazione strana o invece sia un segnale del corpo. In questo ci aiuterà anche il professor Casolari. Che dice, professor Guidetti? È un tutt'uno, spesso e volentieri, perché è umano che se uno ha provato un'esperienza drammatica che crea panico, come vedere improvvisamente intorno il mondo che va in centrifuga, abbia una reazione emotiva violenta. E questa reazione di paura, di solito, di panico, poi si può trasformare in una specie di memoria di questo fatto e con la paura che possa ritornare, oppure addirittura in alcuni casi c'è il problema vero che sono anche malattie ricorrenti, c'è una malattia tipica famosissima, la malattia di Meniere, che proprio dà queste crisi ricorrenti 3, 4, 5, dipende, 10 volte all'anno, puoi avere crisi violente di questo tipo. Allora è chiaro che la gente, una volta che ha provato questa esperienza, come dire, dal punto di vista anche psicologico, rimane un po' segnato. Sì. Allora 824 0024 cercheremo di capire se il problema parte del corpo oppure a generarlo è la mente. 349 238 6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. A Modena, il professor Casolari diceva, c'è il ghiaccio. Qua a Milano fa piuttosto freddo, allora si vedono tutte in giro persone imbacuccate, sciarpa, cappello, guanti, aiutano a scaldarci, delle belle calze pesanti, ma noi ci facciamo anche scaldare dallo shiatsu. E in linea con noi è tornato a trovarci il professor Fulvio Palombini, che è reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Professore, buongiorno. Buongiorno, bentrovati a tutti, buongiorno. Allora, scaldiamoci un po', professore. Sì, sì, anche perché lo shiatsu è una di quelle tecniche manuali che più riscaldano il corpo. L'hanno dimostrato i giapponesi con la termografia, quell'esame che trasforma i colori, il calore in colori. Quindi sicuramente un corpo più caldo dopo un po' di shiatsu, ed è anche una grande tecnica che toglie tutte le tensioni. Un periodo un po' strano questo, un periodo meraviglioso, ma sempre un po' di tensioni ci sono. Certo, quindi ci scaldiamo con lo shiatsu, scaldiamo il corpo e proveremo anche a scaldare il cuore per prepararci a questi incontri natalizi. No. Io vorrei citare una frase molto importante del maestro giapponese che ha inventato lo shiatsu, che lo shiatsu è come il puro affetto materno, le pressioni delle mani fanno scorrere le sorgenti della vita. Questa è la filosofia dello shiatsu namikoshi. Quindi Professor Palombini, io le affiderei, io sono arrivata con le scarpe bagnate e sono qua in onda, lo dico, con i calzettoni, ho i piedi gelati. Ecco, allora io sono anche nella felice condizione di poter proprio eseguire gli esercizi che lei ci suggerisce, perché non ho le scarpe. Sempre prima dei piedi io consiglio qualche pressione sui trapezi, quei grandi muscoli che sono su vicino al collo. Sì. Quello è il punto di grande tensione dell'uomo, della donna, del bambino, tutte le tensioni si accumulano lì. E quindi forti pressioni piuttosto intense con le mani, la mano destra sulla parte sinistra del collo, sì, e fanno delle pressioni piuttosto energiche, così tanto per muovere questi muscoli che si sono un po' gelati, si sono un po' fermati. Qualche movimento con le spalle, e poi lei, una signora giovane, se lo può permettere, seduta comoda, sì, accavalla la gamba sinistra sopra il ginocchio destro e con tutte e due le mani, sì, fa delle pressioni piuttosto energiche, ma non esageratamente energiche questa volta, un po' più dolci di quello che già sappiamo, quel dolore piacere, forse un po' più di piacere questa volta, delle pressioni sul polpaccio. Sì. Belle pressioni intense sul polpaccio, ritmiche, contando fino a 5, 1, 2, 3, 4 e 5, giusto 2-3 dita sotto la plica del ginocchio, sì, fino a quel tendine grosso, quel grosso tendine che si chiama tendine d'Achille, un tendine importantissimo della postura. Il tendine non si tocca, quindi la parte, diciamo così, proprio carnosa, sì, del muscolo, dove c'è la ciccia, insomma. Esatto, ecco. Proprio lì. E si fanno queste pressioni ritmiche ripetute, 5-6 pressioni, e se si può, assolutamente pressioni un pochino più intense sulla pianta del piede. Lo consiglio anche agli sciatori, dopo aver sciato, 2-3 minuti di pressione sulla pianta del piede rimettono la circolazione in ordine. È vero, è magnifico, professor Palombini. Lei è un vero toccasana. Senta, scaldiamoci un po' anche il cuore. Non basta lo shiatsu, ma anche lo shiatsu in questo caso ci può dare un aiuto. Lo shiatsu è una tecnica meravigliosa. Come dicevo prima, il grande maestro Namikoshi ha detto che lo shiatsu è una di quelle tecniche che risveglia veramente l'energia della vita. Il Ministero della Sanità giapponese lo riconosce come tecnica che dà al corpo quelle capacità di autoguarigione che solo il corpo umano possiede. Quindi non abbattiamoci mai, mai. Il corpo ha una forza meravigliosa e lo shiatsu ci aiuta a stimolarlo ancora un po' di più. Professor Palombini, allora ci salutiamo. Buon Natale. Tanti auguri a tutti quanti. Buone feste. Un abbraccio. Felicità. Grazie, professore. A voi tutti. Grazie. Buongiorno. Pronto soccorso. E torniamo ad affrontare il tema del giorno. Oggi parliamo, come anticipato, di equilibrio, quindi se vi manca la terra sotto i piedi, se vi sembra di girare mentre il mondo intorno a voi sta fermo, se al contrario voi siete assolutamente ancorati a terra ma tutto intorno a voi gira, scendete, chiamateci 800 24 00 24, come ha fatto Andrea, che ci chiama da Milano. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per avermi chiamato. Intanto auguri Andrea. Perché? Auguri perché ci stiamo avvicinando al Natale, poi gli auguri portano sempre buono, noi ce li facciamo troppo poco gli auguri, invece dovremmo, vero? Perché ogni giorno ha bisogno di un po' di auguri. Comunque Andrea, auguri anche a voi allora. Bene, allora, dopo questo abbraccio radiofonico che ci raccontiamo? Senta Nicoletta, il mio problema praticamente, ho iniziato con un acufene all'orecchio destro, quel fischio fastidiosissimo, sì, che il professor Guidetti conosce bene. E anch'io purtroppo. Allora, per questo motivo ho fatto una risonanza magnetica con e senza contrasto alla testa. Sì. E ringraziando il cielo è risultata negativa. Niente di che. Solo che il mio problema è che in correlazione con a un aumento di questo acufene in alcuni momenti della giornata, mi viene veramente, dalla prima volta mi sono anche spaventato, mi viene proprio da un giramento con, chiedo scusa l'espressione, con vomito. Non vomito, però sì, mi viene la sensazione di... Una forte nausea. Una forte nausea, sì, come se quando sei appena scesa dalle giostre, sì, da una parte. Certo. Ed è questo, viene proprio in correlazione con un aumento del fischio all'orecchio destro. Io vorrei sapere sinceramente dove appellarmi, cosa poter fare per cercare di risolvere questo problema. Ma io il professor Guidetti è meglio di lui. Professore, cosa succede ad Andrea? Ad Andrea succede che c'è un problema a livello del labirinto, non ci sono tanti dubbi, avendo fatto la risonanza esclude malattie più serie dal punto di vista della gravità teorica come prognosi, quindi siamo davanti a una malattia verosimilmente che ha colpito la parte interna dell'orecchio, l'acufene è un segnale d'allarme, bisogna seguirlo questo allarme perché altrimenti è possibile che le crisi di vertigini diventino più frequenti e soprattutto è possibile che ci sia un peggioramento dell'udito, insomma, senza spaventarlo, ma dico a livello teorico bisogna eliminare le ipotesi di questo tipo e quindi occorre che si affidi a un centro di audiovestibologia esperto per poter precisare la natura e l'entità del danno e mettere a punto la terapia preventiva. Professore, lei ha detto bene, ha fatto gli esami per escludere, quindi non ha escluso problemi più seri. È sempre necessario fare questi... No, abitualmente si fa il contrario. Prima si vanno a visitare i malati cercando nei segni che diano un'idea di dove sia la zona, diciamo, se l'orecchio piuttosto che il nervo, piuttosto che il cervelletto, piuttosto che il cervello, e in base a quello che si trova poi si decide di fare indagini che vadano a cercare la causa, cioè con la visita identifichi la sede della malattia, con gli esami eventualmente come quello della risonanza dell'attacco vai a identificare la causa. Normalmente si fa l'opposto, in questo caso è stato fortunato, hanno voluto escludere subito malattie gravi, quindi lui sa già di non avere malattie gravi. E quindi sta già sereno, ma deve comunque andare a fondo di questo problema. Ah, sicuramente, può anche succedere che sia fortunato e si risolva da solo, ma non è il caso più probabile, ecco. Non è certo grave, ma bisogna inquadrarlo bene. Giuseppe, dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno a lei. E auguri. Auguri, Giuseppe. Lei si sente una persona equilibrata, Giuseppe? Ma ho avuto qualche problema di equilibrio tempo fa, veramente. Dunque, il mio problema è venuto fuori nel luglio scorso. Una mattina all'improvviso mi sono ritrovato a terra senza più possibilità di alzarmi. E dopo sono stato soccorso, portato all'ospedale e mi hanno riscontrato una neurite. Sì. Se ricordo bene il termine. Professor Guidetti, è possibile? Professore? Sì, sì, direi che ci sta come ipotesi. Va bene, allora neurite, Giuseppe si ricorda bene. Ok, e poi cosa è successo? È curata con i cortisonici, il problema diciamo che si è risolto abbastanza, però ancora oggi io ho delle sensazioni in certi momenti di sbandamento, non riesco magari a camminare proprio dritto, quando giro la testa ancora ho dei problemi di equilibrio. Sì. Volevo chiedere qualcosa al professore, diciamo, se questa cosa si risolverà definitivamente. Oppure se c'è la possibilità di ricaduta, insomma, queste cose qua. Certo. Allora, professor Guidetti. Domanda da mille punti perché non ha la boccia. Sì, ma è una domanda molto intelligente anche. Bravo, Giuseppe. Perché colpisce in pieno uno dei problemi maggiori che abbiamo nei disturbi dell'equilibrio. Cioè, dopo un fatto acuto... il cervello deve imparare una nuova strategia di equilibrio, proprio come potrebbe essere, per fare un paragone, uno che comincia a imparare a giocare a tennis o a giocare a golf, per dire, o a calcio. Cioè, a prescindere dai dati di intelligenza, che non c'entrano nulla, proprio ho fatto l'esempio del calcio, che sappiamo tutti che non è che quelli che giochino meglio a calcio siano tutti Einstein, ecco, è questione di predisposizione. Allora, praticamente chi ha questa lesione acuta poi ha bisogno che il cervello cominci a lavorare per creare queste nuove condizioni di equilibrio. E non tutti sono predisposti come per apprendere gli sport, appunto. E può succedere quindi che si cronicizzi una sensazione di instabilità, di insicurezza, che in certi momenti peggiorino. Ecco, allora lì è un momento importante della terapia, perché bisogna cercare di identificare le cause, sono tantissime quelle possibili, che vanno da una situazione di ansia, di depressione, per dire, fino a problemi invece di tipo concomitante, situazioni di tensione muscolare, per scoliosi, per artrosi, per una gamba più corta, per dire, fino a delle condizioni ancora più complicate, come sono per esempio delle reali di sofferenze contemporaneamente dei centri invece cerebrali, in particolare il cervelletto, che a questo compito sarebbe abbastanza adibito. Sì. Allora occorre fare una valutazione raffinata del malato con grande attenzione, e in questi casi abbiamo per fortuna oggi un'arma nuovissima che fornisce grandissimi risultati, che praticamente è la rieducazione vestibolare, cioè una specie di allenamento specifico con macchine apposite che il malato può fare sotto ovviamente le istruzioni di uno specialista, e che aiuta a recuperare questa condizione di normalità dell'equilibrio. Questo è molto interessante, torneremo a parlarne. Rapidamente però vi voglio leggere un messaggio che credo possa avere una risposta dal professor Casolari. In un periodo di forte stress lavorativo ho iniziato ad accusare dei capogiri violenti. Prima ne ero terrorizzato, adesso che sono sempre più frequenti mi fanno meno paura e li considero come un campanello d'allarme che mi avvisa che lo stress ha superato i livelli di guardia. Professor Casolari, una risposta rapida prima di andare ai mercati, riusciamo a darla? Ma ad Antonio? Che possiamo provarci. Diciamo che, come dice giustamente questo ascoltatore, si tratta di una spia che si accende sul cruscotto della nostra automobile. Sì. E che significa qualcosa. Noi dobbiamo accogliere questa cosa, perché ci dice un qualcosa di positivo per la nostra vita, non è un segnale negativo, noi non dobbiamo prendere la spia dell'olio come un segnale negativo, ma è qualcosa di utile alla nostra vita. Certo. Che ci può anche aiutare a trovare un altro modo di vivere che non necessariamente è sbagliato o meno bello rispetto a quello in cui stiamo vivendo normalmente. Ecco, quindi Antonio è riuscito da solo a fare questo passetto in più. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme al professor Guidetti e al professor Casolari in una puntata in cui cerchiamo di panare una matassa abbastanza complicata, quella che ci troviamo di fronte quando parliamo di equilibrio. I segnali che avvertiamo arrivano dalla mente o sono segnali del corpo? Professor Guidetti, una domanda da mille punti, perché alla fine tante volte chi ha disturbi dell'equilibrio ha poi anche una sensazione di instabilità, proprio perché ha paura di ritrovarsi in queste crisi, ed è un po' come un gatto che si morde la coda. Esattamente così, possiamo anche dire che si tratta alla fin fine di un unico meccanismo, che l'equilibrio nella sua dizione più completa dovrebbe essere la sensazione di benessere e di perfetto rapporto con l'ambiente esterno, sia dal punto fisico che dal punto di vista mentale. Quindi è chiaro che se si perturba uno, si perturba anche l'altro, spesso. E certo. E i meccanismi sono diversi. Qualche volta si comincia con un problema psicologico che poi coinvolge la sensazione anche di benessere fisico, quindi anche qualche volta causa anche malattie, altre volte si comincia con una malattia che poi ti disturba in maniera importante anche l'equilibrio psicologico, e allora di nuovo si creano questi circoli viziosi che sono i più difficili da dipannare, sono la causa di solito della cronicizzazione delle malattie e poi dei disturbi sostanzialmente. Professor Casolari, con il professor Guidetti ci concentriamo su capogiri, instabilità, vertigini, però ci sono anche altre sensazioni fastidiose, come ad esempio, direi più che sensazione, quasi paura, la paura dell'altezza, dei luoghi aperti o chiusi, anche l'insicurezza nel camminare, come diciamo noi, la testa leggera. Questi sono più specificatamente problemi che arrivano dalla mente? Ma direi che sia gli uni che gli altri possono essere collegati con la mente, cioè nel senso che noi viviamo in un mondo che dopo Cartesio la res cogitans, la res extensa sono state divise, cioè per parlare in italiano, cioè la parte corporea e la parte mentale nel nostro mondo e anche nella scienza sono state un po' suddivise, però sì. La scienza moderna, con anche i neuroni specchio che tra l'altro sono stati scoperti qua in Italia, a Parma, stanno dimostrando che poi questa distinzione è molto labile, cioè nel senso che i neuroni specchio ci dimostrano come delle sensazioni puramente visive o di tipo psichico si trasformino in qualche cosa di fisico, e quindi la distinzione è relativamente difficile da fare, perché certamente quando noi abbiamo una sensazione di instabilità, e questa è più naturalmente psichica, ma anche una vera e propria vertigine può essere generata attraverso quello che noi in psicosomatica chiamiamo come pensiero operatorio, da qualche cosa di psichico che si incunea dentro la nostra vita e che poi porta il corpo a questo livello di sofferenza. Certo. Andiamo a Bologna, c'è Massimo che ci aspetta. Massimo, buongiorno, tanti auguri. Buongiorno a lei, anche a lei auguri. Senta, io aspetto un attimo che mi capisca tutto. Dunque, io volevo chiedere un'informazione, no? al dottore che c'è lì. Io ho questo tipo di problema, io da sempre... Massimo, bisogno che lei parli, come si dice, nei buchini del telefono, se no non la sento. Quando io sono ad esempio non so, delle strade molto larghe, delle strade molto lunghe, quindi io ho una sensazione di vertigini e mi sudano le mani, mi tremano le gambe, eccetera, no? E io sul momento pensavo fosse anche una fobia, non so, la paura di qualcosa. Sono stato anche da uno psicologo, ma non ho riscontrato niente, ma ho detto sicuramente è un qualcosa che dipende dall'orecchio. Io sono andato da un sacco di otorini, così, però nessuno mi ha mai, cioè, dice, boh, tutto a posto, cioè, nessuno ha mai stabilito che cosa fosse. Sanno che io, ad esempio, quando sono, ad esempio, io abito a Bologna, io che non vado per via Indipendenza, che via Indipendenza era stata più, diciamo, più grande di Bologna, più importante di Bologna, sarà 30 anni, perché io quando sono lì, se non c'ho mia moglie tenere sotto braccio qualcuno così, se io proprio, cioè, proprio ho un lei ha un problema con via Indipendenza a Bologna. È come se fossi sopra, esatto, è come se fossi sopra a un grattacielo da 26 piani e guardo giù, voglio dire, capito? Senta, il vantaggio però forse che lei deve allungare molto il giro e quindi fa più esercizio, no? Sì. Ecco, sì, questo prendiamola in positivo, Massimo, non attraversando la via Indipendenza deve fare tutte le stradine che magari il professor Guidetti conosce. Professore, lei è pratico di Bologna? Sì. E allora, ma che cosa può essere? È un caso da affidare al professor Casolari, a lei, oppure richiede un intervento abbinato di voi due? Allora, ecco, questa è forse la terza, come si dice. Nel senso che... Lo sapevo, fatto finta. In base ai dati, non di quelli che mi ha raccontato, in base ai dati della letteratura che riferite a questo tipo di sintomatologia, sì, è una sorta di agorafobia, chiamiamola così, c'è una alta probabilità che lui abbia avuto inizialmente una lesione alla funzione del labirinto dell'orecchio. Come e che mai? Abbia avuto una difficoltà di adattamento che ha provocato questa, diciamo, questa strategia sbagliata che non funziona in certe condizioni. Quando lui è in certi ambienti con certe caratteristiche, la strategia non è adeguata e lui avverte il sintomo. C'è il 50% di probabilità, è ovvio che la prima cosa da fare è cercare di verificare intanto se c'è questa patologia di base, perché se c'è questa patologia dell'orecchio di base si usa una strategia di terapia. Ed è facile, vero, capirlo, professor Guidetti? Dovrebbe esserlo facile, in mani esperte dovrebbe esserlo. E certo, da guardare, siccome una malattia è sicuramente di lunga data, occorre un attimo più di attenzione nell'identificare i segni, nel cercarli, insomma. Però dovrebbe essere fattibilissimo. Certo. Poi, dopodiché, se si riesce ad agire su questa malattia, si toglie la base. Se non si riesce ad agire su questa malattia, con la collaborazione dello psicoterapeuta, si può cercare di rimuovere i meccanismi di tipo emozionale che si sono venuti a creare, che disturbano il malato. Professor Casolari, venendo da lei, di fronte a casi di questo tipo, agorafobia, paura degli spazi anche chiusi, paura dell'altezza, come interviene? Si interviene? La terapia è lunga? Allora, dunque, io prima cercherei di capire quali sono la situazione emotiva di questa persona, la situazione che l'ho portato a questo, perché dà l'idea, da come lui lo descrive, che sia una situazione che si è abituato a questo modello di vita, per cui per lui adesso anche affrontare questa strada è diventato, anche solo come ragionamento, una cosa che lo mette in una forte tensione. C'è anche questo dato carino del fatto che ha bisogno della moglie, no? Allora mi veniva in mente una battuta che era quella di Yoshi, che diceva: dopo il matrimonio marito e moglie diventano come le facce della stessa moneta, non possono vedersi, però stanno sempre assieme. Allora sembra quasi che ci sia anche una richiesta da parte di questo signore di vicinanza da parte della moglie, come dire, sorreggimi. Sì, ma solo per correre via Indipendenza a Bologna. Una terza alternativa potrebbe essere. Se c'è che forse rievoca qualcosa. Certo, magari si sono incontrati lì. Però per tornare alla terapia, qua ci sono delle terapie di rilassamento, mi è venuto in mente prima sentendo il professor Palombini sullo shiatsu che ha qualche analogia con questo, ci sono delle terapie di rilassamento che sono utili in queste situazioni, soprattutto anche delle terapie cognitivo-comportamentali in cui anche a livello cognitivo si riesce a modificare l'abitudine che la persona ha costruito dentro la sua mente di collegare una via a una sensazione. Certo. Lui ormai fa un collegamento diretto, quando vede Via Indipendenza o pensa a Via Indipendenza pensa già alla sensazione di vertigine, certo, che ha provato, alla sensazione di malessere, e bisogna rompere questo legame psicologico che si è venuto a creare. Andiamo a Bari, c'è Lorenza. Buongiorno Lorenza. Buongiorno, auguri. Intanto auguri a voi tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie Lorenza. Allora, io volevo chiedere una cosa, non per me personalmente, è per mio marito, che praticamente ha avuto degli episodi di capogiro violento. Abbiamo fatto tutte le analisi, risonanza con e senza metodi di contrasto, insomma abbiamo fatto anche gli accertamenti, è stato ricoverato, non si sa che cos'è. Non, praticamente è risultato tutto negativo, adesso lo hanno rilasciato dandogli delle Vessel e Arleventern che praticamente dovrebbero per una cura di 15 giorni e poi si aspetta la prossima crisi. Sì. Ha fatto anche che magari non verrà, Lorenza, vede che anche probabilmente non verrà. Magari non verrà. Iniziamo a pensare bene. Rimane il dubbio. Rimane il dubbio, cioè certo, può essere stato aver causato questi, che ha avuto questi quattro episodi a distanza di una settimana, 10 giorni. Adesso sono già passati più giorni e non è più venuto nulla, però certo, gli sono venuti questi 4-5 episodi. Essere e benessere. Professor Guidetti, allora, Lorenza ci ha raccontato un caso, suo marito capogiri violenti, ha fatto le indagini, nulla, e anche Lorenza dice, stiamo aspettando la prossima crisi, speriamo di no, ma ne ha avute 4 ravvicinate. Sì, Lorenza ha ragione a preoccuparsi per il marito, la probabilità che abbia di nuovo delle crisi di questo tipo è piuttosto alta, perché se non è stato fatto, diciamo, un iter diagnostico che ha consentito di arrivare alla diagnosi precisa, il rischio ovviamente rimane alto, perché si usano farmaci basati su ipotesi nella speranza che quelle ipotesi di azzeccare quella giusta. Ecco. E intanto una premessa, sono 2 ottimi farmaci quelli che sta prendendo e che in una grande percentuale di casi dovrebbero, diciamo, riuscire a eliminare o a ridurre notevolmente il rischio di cui abbiamo parlato prima. Intanto questa è già una buona notizia, perché se è un problema vascolare il suo Dexide, cioè uno dei 2 farmaci che ha nominato, è un ottimo prodotto, e se si tratta di una forma ricorrente, per esempio con problemi di vasospasmo come succede agli emicranici, per dire, l'altro prodotto è altrettanto ottimale. Detto questo, però la storia però lascia uno spazio anche a un'ipotesi particolare, cioè quella della vertigine parossistica legata ai cambiamenti di posizione, quella che viene chiamata ormai da qualche anno la vertigine dei sassolini, dei calcoli nell'orecchio, che se non viene vista nel momento giusto, cioè quando il periodo è proprio acuto e non viene esaminata con le tecniche particolari che richiede appunto questo tipo di diagnosi, potrebbe essere non riconosciuta. E questa è una percentuale di rischio di ricaduta notevole in questi casi, però la notizia buona è che se si tratta di quella, i farmaci che abbiamo detto prima avranno un effetto limitato, perché è una malattia meccanica. Bisogna rimettere i sassolini a posto. Esattamente, basterà poi che alla prima occasione di crisi violenta si faccia visitare nella maniera giusta, ecco che automaticamente, se quella è l'ipotesi, guarirà. Senta, però quando noi abbiamo la crisi non è che abbiamo il professor Guidetti, a meno che non vivere con lei, cioè potrebbe essere fortunata, che ne so, sua moglie, ma se io ho una crisi poi allora devo cercare di recuperare alcune caratteristiche per raccontarle al medico, perché sennò se poi lui non la becca più, come faccio? È più che giusto. Allora, diamo due dritte. Sì. Non è che voglio venire a vivere con lei, però... però qualcuno comincerà a pensare. Beh, certo, va bene. Ma le lingue da gossip in Italia siamo abituati male. Allora, dicevo, se due dritte per una signora. Guardi gli occhi del marito quando sta male. Sì. Se il marito dice che vede girare tutto il mondo e lei vede gli occhi ballare, saltellare, è sicura che al 999 per 1000 che è una malattia dell'orecchio. Voilà. Ed è già pronta a partire quindi nella direzione giusta come terapia, come diciamo inquadramento di patologie e quindi terapia. Questa è una cosa che può fare benissimo la signora. E poi ecco, se succedono queste cose, cioè se vede il mondo girare, non vada fuori strada a cercare malattie strane, complicate, l'artrosi cervicale, non so quale altra stravagante malattia. È sicura 999 per 1000 che è l'orecchio, quindi si dia da fare finché qualcuno non riesce a scoprire quella malattia dell'orecchio. È una tristezza, ma ancora in Italia succede spesso che il primo passo è sbagliato. Aspetti che lei intanto non mi faccia perdere la testa, devo dare il sito di progettovertigo.com. Può aiutare molto nella diagnosi, perfetto. Ecco, perché ci sono i centri che in Italia, dato che tante persone mi stanno scrivendo, sono 3 anni con i capogiri, ho le vertigini da 5 anni, eccetera, ho fatto tutti gli esami, qua su progettovertigo.com trovate i centri che sono proprio più specializzati di altri ad affrontare questo problema, dico bene? Sì, e poi c'è anche un'altra cosa che può essere utile, sempre su progettovertigo.com ci può essere anche un questionario, diciamo, di autocompilazione, il malato può andare a leggere tutti i sintomi, riconoscere quello che corrisponde più al suo e quindi essere più preciso nel descriverlo. Sì, a meno che poi funziona anche che poi uno quando si sente i sintomi se li sente tutti, professor Casolari, allora poi bisogna venire da lei, insomma, eh? Sì, il rischio è quello che a un certo punto la fase dell'allarme si propaghi a tutto il resto della nostra vita, perché la vertigine è certamente un segnale di allarme che il nostro corpo ci dà, che qualcosa è disequilibrato, può essere qualcosa a livello neurologico, può essere qualcosa a livello dell'orecchio, può essere qualcosa a livello psichico o ad altri apparati del corpo. Noi dobbiamo riuscire a cogliere questo allarme, non amplificarlo e a cercare di trovare una soluzione che modifichi in parte la nostra vita. Ad esempio, certo. Anche per l'orecchio ci sono delle modifiche del proprio comportamento alimentare o del proprio modello, ad esempio mangiare meno sale o mangiare in un certo modo, che aiutano a ridurre le possibilità che certi eventi si determinano. E così a livello psichico. Certo. Se io accetto questo allarme e lo metto in sintonia con il resto della mia vita, cercando di trovare dei modi per attuare un'auto-osservazione, un'auto-valutazione, prendermi anche degli spazi per me stesso, sì, questo allarme sarà positivo. Se e invece no, io lo amplifico, lo faccio diventare, come dire, adesso diventa una prigione. Diventa una prigione. Veronique ci scrive: ho paura di dimagrire perché appena mi alleggerisco mi sento instabile ed in balia del mondo. Professor Guidetti. Succede spesso. Ne vediamo di continuo. Veramente? Le diete sono qualche volta non eseguite correttamente oppure sono di per sé non adatte magari alla persona specifica e possono dare disturbi metabolici che sono alla base poi di sintomi seri come anche giramenti di testa importanti, oppure possono, tra virgolette, indebolire una persona che ha già una vecchia vestibolopatia e che non dava più segni, e in qualche maniera la scompensano, cioè ricominciano a apparire segni perché la debolezza, l'indebolimento, come diciamo con causa scatenante del ricomparire dei sintomi, capita spesso. Quindi attenzione alle diete fai da te. Assolutamente. Possiamo sì, dire questo. Sì, assolutamente sì. Ma noi andiamo, non vogliamo assolutamente parlare di dieta adesso, vi porto, professor Guidetti, lei come se la cava in cucina? Oh, io sono bravissimo a preparare il tonno con l'insalata, diciamo. Ma, vabbè, è il mio massimo. E il professor Casolari invece? Ma dai, ma vivete a Modena. Sono leggermente più bravo, ma non proprio. Va bene, allora io vi mando, vi porto a lezione dallo chef Fabio Campoli, che è in linea con noi, con cui stiamo peccando di gola, ma stiamo facendo dei peccati sani in questa settimana, in occasione delle festività del Natale, se no arriva il carbone. E in linea con noi abbiamo anche la dottoressa Manzi. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Presidente dell'Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina e direttore del corso di alta formazione che si aprirà a febbraio, vero dottoressa Manzi? Infatti, un corso molto innovativo perché portiamo la ricerca scientifica in cucina. Ecco, quindi mangiamo bene e soprattutto sano, vero? Esatto. Allora, Fabio, qua abbiamo veramente due allievi molto, direi, no? Poco dotati in cucina, ma noi gli suggeriamo una ricetta facile in modo che facciano bella figura anche loro. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. La ricetta di oggi è veramente facile, bravo. È quello che vorremmo insegnare al corso, perché è una più sfoglia di arrosto di vitello con carciofi saltati alla menta e una salsa di pane ai funghi. Tutto questo facendo un po' di attenzione, perché spesso l'arrosto viene immaginato come una carne secca piena di salse. Invece se uno fa l'arrosto deve essere una carne rosolata ma ricca di succhi, non ha bisogno di salse. Quindi prima un arrosto di vitello o di altra carne fatto bene. Sì, non so se il professor Guidetti ce la farà, ma poi gli mettiamo la ricetta sul sito, professore. Certo, fra poco sarà sul sito. Non si inondano le carni di olio, quell'olio di cottura non va mai mangiato, la carne deve essere rosolata e ricca di succhi. Sì. Quindi poi due carciofi saltati in padella con un pochino di menta o nebbiella, un cucchiaio di olio, e poi la salsa di pane che è fatta così, con il pane raffermo tagliato a cubettini, messo in casserola, si fa rosolare, si aggiungono un po' di funghi secchi e dell'acqua e poi si passa al frullatore e avremo una salsa di pane ai porcini. Buona. È facilissimo, perché mettiamo sul fondo del piatto la salsa di pane molto ricca ma poco grassa. Poi facciamo due fettine di vitello e alterniamo come fosse un millefoglie con i carciofi saltati. Magnifica! Quindi. Magnifica e buona, ma soprattutto anche leggera, gustosa e sana. Dottoressa Manzi, ci mette anche il suo placet? Sì, infatti. Così il professor Guidetti, che si mette a cucinare, sa che fa una cosa per bene. Anche il professor Casolari magari lo aiuta. Ci dica. Infatti, io come nutrizionista ho la grande fortuna di lavorare a fianco di Fabio Campoli, di Gualtiero Marchesi e di tanti altri cuochi, ed è veramente qualcosa di straordinario. Eh sì, anche perché chissà cosa mangerete a Natale voi. Esatto. Per questo, già visto lungo la dottoressa Manzi, dice meglio che mi accompagni con gente che sa. Effettivamente, anche riprendendo il discorso che facevamo prima delle diete, mangiare in questo modo ci aiuta a stare bene in salute, a perdere eventualmente anche il peso che dobbiamo perdere, senza però incorrere in diete eccessive, ma imparando a mangiare equilibrato, giusto anche per così non ci vengono poi le vertigini da dieta. Ecco. Allora, intanto io ringrazio Fabio Campoli e la dottoressa Manzi, grazie per essere stati con noi, per queste ricette che troverete naturalmente sul nostro sito, grazie. Professor Guidetti. C'è una cosa da dire, siamo dimenticati una cosa importante a proposito della dieta. La cosa che fa girare più la testa di solito è l'alcol. Bravo, quindi moderation. Allora, beviamo perché è una bella cosa, il vino buono... Lasciamo perdere il vino cattivo, beviamone comunque anche del buono, una dose moderata per non avere giramenti di testa che ci rovinano le giornate. Certo, professore, io la ringrazio, intanto la ricetta è per lei sul nostro sito, anche per il professor Casolari. Poi raccontateci se vi siete messi ai fornelli. Buona giornata a voi, appuntamento a domani.